buongiorno amiche e amici del Move to Groove. Oggi facciamo gli auguri di compleanno a una delle migliori ali grandi anni 80 NBA. Spegni 65 candeline, Larry Nance. Beh, in questo caso tornando in diretta dal grande fondoschiena ai grandi polpacci e garetti per un'elevazione strepitosa, gli auguri a Larry Nance, Phoenix Suns, Cavaliers, sperando di averlo pronunciato con scioltezza. Ci vuol fortuna a volte anche per trovare la pronuncia esatta. Il grande Larry Nance alle 8:05 è la palla 2 alzata dal nostro Paolo Onofri. Nuovamente buongiorno amiche e amici sportivi e non sportivi, già presentati Pietro e Paolo Onofri, qui Zanardi e Pietro Rossi direttamente nello studio di Radio Città Fujiko. Nuovamente benvenuti. Buongiorno, siamo santi, Pietro no, e ma Paolo. Certo, ma sai che... Beh, non è fatto a caso. Tra l'altro io che ho una grande attenzione a tutti questi aspetti evangelici, confermo che la difficoltà è fare confusione tra questi nomi che sono quanto mai biblici e importanti. L'attenzione di quest'oggi però è a qualcosa che dà peculiarità fisica. Nelle scorse puntate abbiamo con Pietro Rossi dato attenzione alle mani grandi, braccia lunghe, le capacità con i piedi di Bob Lanier di prendere posizione. Ora penso che meriti una puntata, da un'idea ovviamente di Paolo Zanardi al grande fondo schiena, ma non in maniera di body shaming. Ma io tutt'altro. Ti voglio chiedere una cosa perché è, diciamo, il cuore della trasmissione. Si può dire culo oggi? Sì. No, perché io mi sono segnato alcuni appunti, perché lancio un sondaggio al 333 1809 494. Io mi ricordo culo pesante, culo che fa provincia, culo da divano, culo da divano, culo da sposa, culo con la targa. Quindi se gentilmente i radioascoltatori potessero contribuire inviando messaggi, sarebbe graditissimo. In questo caso abbiamo una deroga, perché non lo stiamo dileggiando, tutt'altro, anzi lo stiamo valorizzando, e non nel senso di fortuna o in senso malizioso, ma nello sport, in questo caso pallacanestro, con qualcosa che insomma prende posizione, dà sicurezza, è preciso nel tagliafuori e direi proprio che è una caratteristica, e sentiremo anche dai nostri ospiti in diretta telefonica, che ha portato oltre e non solo fortuna. Con Pietro un interessante approfondimento e osservazione su quello che è un passaggio tra la pallacanestro che intendiamo noi e quello che adesso, entrando in studio diretta, ha affermato. Ora, la caratteristica protagonista sono più i piccoli, diciamo, ad averla, piuttosto che i giocatori che più vicini a canestro dovessero portare tagliafuori, presa di posizione e quant'altro. Sai che ho fatto caso anch'io a tutto ciò? Sì, poi volevo chiedere a Paolo cosa ne pensava. Secondo me dipende molto dalla capacità di prendere posizione spalle a canestro, certo, che banalmente è un qualcosa che molti lunghi odierni in NBA non hanno, perché vengono scelti in base a caratteristiche fisiche potenziali, soprattutto correre il campo, aprire il campo e quant'altro, e non tanto appunto prendere posizione. E quindi no, a me è venuto in mente su tutti Chris Paul, c'è un giovane a Minnesota, Anthony Edwards, molto molto bravo a prendere posizione spalle a canestro e quindi a fare un grande uso del fondoschiena, che però appunto è una guardia, non è un lungo. Embiid, beh, sai, è un grande lungo. Quello che tu dici secondo me è corretto, perché veniamo da un periodo dove i lunghi, una volta si diceva, si fanno il viaggio che possono giocare anche gli esterni, mentre per quanto riguarda i piccoli, secondo me il motivo per cui molti piccoli si sono anche appoggiati a questo fondoschiena è che magari nascono dai playground. Nel playground devi essere capace di giocare all round, cioè su tutte le posizioni, e quindi di conseguenza anche il piccolo è capace di giocare spallacanestro. E questa peculiarità diventa fondamentale. Noi abbiamo uno star game tra coach, tra ricordi e tra protagonisti. A me è venuto in mente il primo ospite che contatteremo a breve, che appunto con un velo di imbarazzo questo, non lo sentivo da tempo. Ho detto, beh, Emiliano, ma insomma abbiamo organizzato, anzi Paolo sta organizzando questa puntata e penso che tu sia importante, perché sì, perché il mio culo era atomico, ma ha rotto ogni imbarazzo, hai capito? Il mio fondoschiena era atomico. A proposito di Amarcord, lasciami anche salutare e fare gli auguri di compleanno oggi a Stefano Ciccio Parmegiani, ecco, altra persona che conosciamo da essere dotato come me di una certa fortuna cestistica, e oggi fa gli anni, gli facciamo gli auguri in diretta. Al Ciccio Cantergiani? No, al Ciccio Parmegiani. Ancora meglio. Ancora meglio. Leggerissimamente in ritardo, 8 e 11 minuti, non è un caso che ho trovato nella nostra playlist i Fatback Band. E oggi la colonna sonora è mirata a tutto ciò. Con le dovute maniere ho contattato Emiliano Neri qua in diretta telefonica con noi e lui ha risposto sì, il mio fondoschiena era atomico. E su queste parole ti do il buongiorno e ben ritrovato Emiliano, ciao! Ci sei Emiliano? È scappato via, si è preso paura. È andato al ristorante. Proviamo a fare così, adesso alzo il cursore della diretta telefonica, se ci sei Emiliano entra quando vuoi, se no ti chiamo in un altro modo, non riesco a sentire la tua voce con la diretta telefonica, evidentemente come al solito no, non abbiamo avuto quella caratteristica. Ecco, in questo caso non abbiamo avuto culo, non abbiamo caro Willy, devi sapere che la caratteristica fisica di cui stiamo parlando è qualche cosa che effettivamente non riguarda soltanto la pallacanestro. Adesso, mettendo da parte Nadia Cassini, che molti radioascoltatori ricorderanno sicuramente come un'icona del lato B, io ricordo benissimo un'intervista di Niki Lauda al tempo che sosteneva che uno delle sue punti di forza è che la vettura lui la guidava col sedere. Ecco, adesso ci senti Emiliano? Sì che mi sento. Oh, meno male. Visto. Ma sei da Bertino? Sei da Bertino o sei al mulino bruciato? No. Ok, intanto grazie della disponibilità. Definito con questa caratteristica atomica, Emiliano, abbiamo giocato insieme diversi anni, insomma, poi giustamente le carriere si sono separate con le dovute misure e non solo di fondoschiena. L'utilità per quanto riguarda questo aspetto è da te, ovviamente c'è motivo di approfondimento sin dai tempi del mini basket a Zola Predosa. Ci puoi dire qualcosa di più, Emiliano? Ma adesso la realtà è che anche il fondoschiena va allenato. Vedi? Esatto. Nel senso che comunque l'utilizzo del fondoschiena è una cosa che uno ha di natura, ma va allenato sul campo, perché comunque sia trovare il modo e la posizione per utilizzarlo è qualcosa che si costruisce nel tempo. Ho capito, con l'esperienza tu dici. Con insomma. L'esperienza e con la malizia che poi pian pianino metti assieme. E poi oltretutto con un buon appetito che non ci manca, ma questa è una parte secondaria. Ma questo anche nella seconda e terza carriera. Cioè non sì. Ma più nella seconda e nella terza, perché finché ero nella mia prima carriera professionistica, il mio fondo schiena era di dimensioni importanti, ma il resto del corpo era molto atletico. Era più atletico, se vogliamo. Esatto. Pensa, Emiliano, che io non l'avevo allora, mi è venuto adesso che non mi serve a nulla. Quindi sono più sfortunato, ecco, se vogliamo così. Come... Non penso, hai sempre avuto una buona mano. Grazie, ti ringrazio molto. Abbiamo giocato insieme nelle giovanili Fortitudo. Dopo la Fortitudo, dove tra l'altro hai fatto anche un'importante presenza nella massima serie, la tua carriera è andata avanti in che modo, Emiliano? No, ho continuato in Serie A con Modena, e dopodiché intorno ai 30 anni sono sceso di categoria in Serie B, e ho continuato fino ai 35 in Serie B. Poi dopo impegni lavorativi e quant'altro, certo, mi hanno fatto scegliere di continuare nelle minors bolognesi. Ricordo di un importante scontro avversario, l'Indesit Caserta, dove tu hai limitato un talento eccezionale come Oscar. Hai avuto fortuna oppure c'è stata una grande applicazione? Penso alla seconda, Emiliano. Tutte e due, perché Oscar era un giocatore che se voleva non si limitava, però diciamo che l'applicazione difensiva, diciamo che la grande energia che mettevo nel giocare l'hanno contenuto, diciamo. E certo, e questo ovviamente nel prendere posizione e nel taglia fuori. E anche tu sei d'accordo che per prendere i rimbalzi bisogna, così, si può fare anche senza avere una grandissima elevazione, braccia lunghe o chi più ne ha più ne metta. Forse è più importante avere un buon fondo schiena, Emiliano. C'era chi diceva che il giocatore che faceva il taglia fuori perfetto avrebbe potuto prendere il rimbalzo con la palla che cadeva per terra. Esattamente. Senza bisogno di saltare. E noi lo confermiamo. E tu ne sei anche un esempio, tra l'altro. Dopo passo la palla al nostro Paolo Zanardi, ti chiedo cosa è mancato alla nostra Fortitudo con Dalla Mora, Emiliano Nero, Andrea Cessel, mi ricordo che c'era anche Niro Locatelli, ricordo abbiamo fatto a quei tempi delle finali nazionali a Udine, non sono andate benissimo, però secondo me già dai nomi che ho citato era un bel team. Cos'è mancato? Ma forse la crescita, è una crescita che è arrivata poi pian pianino, tant'è che da quel gruppo lì poi dopo siamo arrivati a vincere il titolo, sì, due anni dopo, quindi diciamo il titolo juniors che nessuno lo ricorda, ma è il primo vero titolo della Fortitudo. Esattamente, a livello nazionale. Paolo, a te. Ma sì, io vorrei chiedere a Emiliano, visto che appunto ha citato un po' il suo percorso da giocatore professionista, se ci può ricordare quali sono i giocatori che più l'hanno impressionato, con i quali ha giocato in squadra o anche contro, possibilmente magari legati al tema di oggi, quindi che facevano appunto del sedere o del tagliafuori o del gioco spalle a canestro una delle armi più importanti. Guarda, due su tutti, ho avuto la fortuna di giocare con Artis Gilmore, che al di là della imponenza fisica era veramente un culo di proporzioni smodate, cioè più che atomiche, più che atomiche, nucleari. Lui era veramente qualche cosa di tutto. E l'altro giocatore contro il quale ho giocato più volte durante gli anni quando ero in Italia è stato Daryl Dawkins, altro giocatore con grandissimi trascorsi NBA che venne in Italia alla fine della carriera, ma che era ancora un fisicamente un animale, che anche lui aveva un fondo schiena non indifferente. Mi raccontava Nino Pellacani, che ci ha giocato assieme se non sbaglio a Torino, sì, che esatto, non riuscivi a spostarlo Dawkins, cioè proprio se tu provavi era come appoggiarsi a una colonna, a un fitone dell'autostrada. È incredibile. Guarda, ti racconto questo aneddoto, sì. Giocammo contro di lui e Mauro Di Vincenzo mi mise a marcarlo e io sono riuscito per 4-5 minuti a non fargli ricevere palla. Io la chiamavo la difesa a puntello, mi mettevo a 45 gradi e spingevo come un dannato per cercare di non farlo muovere. Mi sono complimenti alla fine. Però il problema è che era l'intervallo, non era durante la partita. Eri lì che spingevi, ma guarda che devo ancora iniziare la partita. Ma io intanto prendo posizione. Bella la difesa a puntello, però bella. E lui sapesse che io ero lì. Ok, che ci fosse una presenza. Ascolta Emiliano, adesso ti occupi di economia e finanza, non vorrei aver travisato un pochettino i tuoi percorsi, e ovviamente anche lì ci vuole fondoschiena. Vuole fondoschiena, ma anche lì ci vuole tanta preparazione e tanta costanza. Certo, certo. Quindi sì, io mi occupo di consulenza finanziaria e sono 26 anni che faccio questa attività, quindi sono molto contento. Sei diventato collega di Andrea Cessel, può essere più o meno? Andrea fa un lavoro simile al mio, sì in un'altra realtà, però certo. Simile. Certo. Certo che se entrambi ci mettono la foto nel lavoro come quando giocavano a basket, cioè, devono essere due grandissimi professionisti. Esattamente, perché... esattamente. Senti, nel frattempo, nel frattempo sappiate che Sandro Caramori mi scrive: guardate che Marcello Starks era abbastanza ineguagliabile in termini di sedere. È vero, beh ce ne sono, Jim McMillian. Insomma, abbiamo un panorama e un ventaglio, uno star game veramente molto e molto importante. Emiliano, io ti ringrazio tantissimo per questi 10 minuti al Moved Groove di Radio Città Fujiko, ti auguro una buona giornata, piacere di averti ritrovato e quindi ti auguro una buona fortuna, ok? Grazie a voi, è stato un piacere. Ciao, grande Emi, ciao. Ciao, ciao. Ciao, buona giornata. Ciao. Sappiate che abbiamo qualcuno che va a sabotare il mixer, no? No, perché c'era una piccolissima funzione invisibile che non ci permetteva di avere la voce di Emiliano Neri. Intanto sentiamo anche il contributo che arriva da Paolo, ovviamente. Grande Emiliano, saluta papà. Sì, perché è stato il primo tifoso di Emiliano Neri, è il primo tifoso di Emiliano Neri. E Paolo Onofri che... ricorda anche una grande prestazione contro... Darrell Dawkins di Emiliano Neri. E infatti è stata citata nei ricordi e negli aneddoti. Grazie, alla prossima. Ci saluta anche Emiliano, ma non finisce qui perché lui ha detto: il fondoschiena va allenato. È vero. E noi a breve avremo un coach. Infatti. Che anche lui è stato. Ma sai che per me il nostro coach, oltre a essere uno degli allenatori che purtroppo, mannaggia, ho sfiorato, perché secondo me è un grandissimo allenatore e non solo per stazza fisica, io l'ho visto giocare. Stavo proprio dicendo questo. Era buono, buono come il pane. È vero. Cioè aveva dei movimenti incredibili dal post basso. Stiamo parlando di Stefano Pillastrini. Ascoltiamo un po' di musica, andiamo in pubblicità e poi rientriamo con la voce di Stefano e magari ci spiegherà come allenare tutto ciò. A tra poco. I love you, girl. Da un'idea di Paolo Zanardi, lato B del basket, alle 8:28 minuti abbiamo anticipato per motivi di ospitate in diretta la pubblicità. Io ho contribuito, oltre che con ricordo e percorsi, ovviamente con la colonna sonora. Quello che state ascoltando è Miles Davis in un'interpretazione da Something Else di Cannonball Adderley. Vi parlerò poi anche di Julian Adderley, della stupenda Love for Sale. Allora, intanto Miles Davis sappiamo bene, genio immenso, 5 rivoluzioni musicali. L'unico disco in cui ha fatto il sideman è questo, cioè l'unico disco non da protagonista, lui ha accettato di farlo con Julian Cannonball Adderley, che tra poco ascolteremo al sax contralto. Già dal soprannome Cannonball, palla di cannone, lasciava presagire un'importanza fisica importante anche sui fianchi, oppure la contrazione di Cannonball, perché l'appetito spropositato, dicono, è stato in grado di consumare delle cene con 15 portate, una roba insomma che avrebbe dato soddisfazione. Probabilmente ha dato anche ispirazione, qua lo sentiamo nell'assolo al contralto, da Something Else, un genio nel mondo dell'art bop, e probabilmente questa stazza fisica è stata una delle sue caratteristiche per cui viene ricordato. Cannonball Adderley. Accogliamo il nostro ospite con una grande musica di un altro grande coach, che è Julian Cannonball Adderley al sax contralto, qui in versione da coach, addirittura con sideman il grande Miles Davis. Emozione, Paolo Zanardi, caro, avere il tuo coach qua in diretta. Del grande Stefano, ciao. Ciao Paolo, ciao. Grandissimo. È sempre un piacere anche per noi. Io mi stavo chiedendo adesso, chissà chi è stato l'idolo di Pill da giovane quando giocava a basket al San Mamolo. Chi era? Non lo penserete. Io ero fortitudino proprio fin dall'inizio. Franza Rigoni è il mio giocatore preferito. Franza Rigoni, okay. Franza Rigoni, sì, segniamo, sì, anche proprio... questo nell'identikit di Pillastrino. Grandissimo. Allora, abbiamo ascoltato Emiliano Neri, poc'anzi, che ha esordito con una frase molto interessante, che è un collegamento anche con te. Il fondoschiena, che è il tema della puntata odierna, va allenato. Tu sei un coach, ci puoi dire qualcosa di più? Beh, adesso intanto pensiamo al fondoschiena in senso proprio fisico, no? Sì. Cioè, di occupare spazio. Esatto. Beh, l'utilizzo del fondoschiena va assolutamente allenato. Cioè, la capacità di giocare col contatto fisico, perché ci sono tanti giocatori che magari hanno stazza, ma che non lo usano, e magari giocatori molto più longilinei, meno prestanti, che però non hanno non hanno la capacità di giocare con i contatti, quindi il piacere di giocare col corpo del difensore addosso, usarlo come un perno, girargli attorno, usare le finte, usare, prendere posizione, così è un, assolutamente va allenato, e secondo me ci vuole una predisposizione, non è una roba da tutti. Ma a proposito di questo, Stefano, una domanda che mi ero anche segnato per te è questo, senza voler cadere nel tormentone, una volta il basket era meglio, era peggio, non è questo il concetto, ma l'idea è, adesso nelle giovanili insegnano comunque a giocare spalle, in nel senso, sì, utilizzando questo? Sì, sai, c'è una differenza grossa che non viene considerata. Queste cose si imparavano più che in palestra, si imparavano nei campetti, nel campetto, cioè sì. Il playground era proprio il momento in cui questo tipo di predisposizione di usare il contatto fisico, di usare il corpo del difensore, il gusto proprio di andare a rubare un canestrino vicino, c'era proprio il momento in cui si provava di più. Il palestra viene insegnato in una differenza, però c'è proprio una differenza abissale, che i ragazzi già della vostra età, e voi siete già borderline come età, no? Cioè, da voi alla vostra età già il campetto è un po' diluito, negli anni precedenti uno aveva tantissime ore di pallacanestro in più, perché spesso almeno la mia generazione era così. Andava a giocare al campetto, poi si faceva allenamento, poi si tornava al campetto. Certo. Oggi invece i ragazzi fanno quelle due ore di allenamento, dove peraltro non sempre, avete ragione, ci sono allenatori che insegnano, e poi è tutto lì quello che si gioca. E queste cose che sono proprio quelle cose che si devono provare, riprovare, non si deve avere paura di sbagliare, di fare errori, eccetera, vengono un po' messe da parte. Sì, devo dire due cose su quello che dici. Innanzitutto che per la proprietà transitiva, avendo detto la stessa cosa io 10 minuti fa, posso allenare anch'io in Serie A. No, ho detto la stessa cosa, non scusami. Non abbiamo dubbi, Zanardi. E seconda cosa, mi ritengo appartenente anche alla tua categoria di chi passava sempre tantissimo tempo al campetto. Okay. Io proprio ero sempre al Meloncello, a Geni Margherita, dove vuoi tu. E certo, questo è un fondamentale. Sì. Sì, ma allora, sinceramente si vedeva anche, però, perché tu avevi una capacità di essere opportunista, di prendere le occasioni, di essere ruspante. Sì. Che è ruspante, perfetto, bravissimo. Era quello che diceva la mia ex moglie. Stai al campetto, stai al campetto. Ascolta, Villa, abbiamo un giovane redattore che è appassionato, oltre che capace, fuori onda ha detto: paradossalmente adesso i piccoli hanno più la capacità di portarsi a spalle a canestro. E sai che nella pochissima pallacanestro che ho visto, non seguo più ovviamente, ho notato questo aspetto dei lunghi con, mi permetto di dire, le mie caratteristiche che si allontanano, e i piccoli invece che approfittano più spesso in velocità di questa assenza vicino a canestro. È così, Pilla? Assolutamente sì, e ti dirò che secondo me, nel mio modestissimo parere, è un'evoluzione del gioco. Ah. Perché era stupido provare a fare, non so, chi se lo ricorda, ma Paolo aveva un compagno di squadra straordinario, si chiamava Alberto Ballesta, no? Sì. Che era un giocatore con un tocco, una mano. Sì, tecnica molto importante. Molto importante, però per i lunghi molto spesso questo lavoro con i contatti era difficile da insegnare. E invece non era così difficile quando poi avevi un talento come Ballesta. Poteva diventare anche degli eccellenti tiratori da 3 punti. Sì. E invece si vanno a richiedere delle abilità ai lunghi, degli spazi brevi, dove devi usare il piede perno, devi rimanere piegato, devi appunto, come dicevo prima, usare il corpo, il sedere, che sono veramente difficili da insegnare ai ragazzi alti. Sì. Quando invece è molto più facile insegnargli a fare un tiro o un passaggio, perché richiedono meno destrezza, meno abilità. Quindi tante volte hanno iniziato ad avere Monica, non so se vi ricordate, io il primo che vidi che tirava da fuori con questa naturalezza era Bill Laimbeer, non so se certo, certo. Come? Certo. E che diventò un tiratore da tre punti clamoroso con una montagna come sì. lui di 2012 che tirava da tre punti, sembrava una follia. Invece permetteva dei compagni molto più abili, molto più veloci, con una grande destrezza, di andare a giocare vicino a canestro, e lui portava fuori lunghi avversari, creava spazio in aria, apriva spazio, sì. Ed era, secondo me, ed è stata una cosa che poi è diventata frequentissima. Più frequente, sì. Allora, intanto, Pilla, ti porto gli auguri della chat che ho con tutti i ragazzi della Fortitudo della nostra annata. Ti salutano tutti, da Ciccio Parmegiani che compie gli anni, a Sandro Caramori, a Tommy, via dicendo. E, ti volevo chiedere, nella pallacanestro di oggi, quindi tu alleni ancora e sei sempre stimatissimo come allenatore, e c'è qualcuno che secondo te in particolare che è ancora chiaramente... sta giocando, voglio dire, che ha queste caratteristiche che ricorda un po', diciamo, il gioco a spalle? Allora, non è questo, parliamo di giocatori italiani principalmente, un momento in cui ci sono dei giocatori di grande abilità, perché non so, anche Melli per esempio, vabbè, che è forse il nostro giocatore un po' tra i lunghi un po' più bravo, non è bravissimo in questo, e delle guardie, sai che non mi viene in mente. Perché per esempio Bellinelli è uno che va anche vicino a canestro, però a e se ti dicessi Hackett? No, hai ragione, perfetto, bravissimo. E allora a questo punto allora, mi assumi come vice allenatore, però, perché non è che ti posso dire tutto, cioè. Come capo, faccio io la grazie. No, Hackett è proprio quel giocatore ottimo, che ha questa capacità di portare, anche perché è quasi sempre più grosso, però addirittura delle volte va anche spalle che adesso con i lunghi quando cambiano, perché comunque sfrutta il mismatch, l'abilità, e poi riesce a prendere falli, a trovare soluzioni, a provocare raddoppi per poi pescare. Sai chi anche quando è stato a Bologna a livelli più bassi è stato un mio giocatore di cui ho grande stima, è Fantinelli. Ah, è vero, che potrebbe sfruttare anche molto più spesso questo mismatch, secondo me. Sì, sì. E comunque ha una grande predisposizione, anche se lui va lì soprattutto per passare la palla. È vero, sì. E aggiunge Paolo Onofri, e ha ragione, Laimbeer si sposava bene con Aguirre, lasciandogli la zona dell'area per il post basso usando il suo fondo schiena importante. E con questa citazione direi che possiamo congedarci da Stefano Pillastrini, coach, uno tra i coach, lo dico tanto ormai posso dirlo perché come atleta sono già bello che è andato, purtroppo ci siamo solo sfiorati, ma uno tra i coach più preparati che io abbia avuto. Uno studioso della pallacanestro. Sì, io ti ringrazio tantissimo, Stefano. Grazie a voi. Grazie a te, ci sentiamo per il contratto, Stefano. Ti telefono in privato per il contratto. Ok. Con un ricordo, con una testimonianza a proposito di lato B, ma non certo per dileggiare, anzi per valorizzare tutto ciò. abbiamo con noi un compagno di squadra e un atleta che è stato importante nelle minors e non solo, personaggio carismatico di percorso e di carriera cestistica nella provincia, ma ribadisco e non solo, compagno di squadra purtroppo scomparso di recente, Moses Gambini. Ha detto Stefano Gherardi, soprannominato Chiodo, che andava a chiudersi da qualche parte. Sì, un po' non come Fantozzi con la patata in bocca. Non ho capito bene. Perché è al lavoro, è a lavorare, allora si chiude. Vado a chiudermi da qualche parte, ha detto. Ti sei liberato, Chiodo? Sì, ci sei? Sì, sì, sì, e lei, lei Fantozzi? Fonti, Chiodo e lei? Ci sono. Okay. Danna, non fai il furbo perché ti auguro il buon all'indiana a tutti, lo sai. Ok, stai attento. Va bene, speriamo, va bene. Speriamo che il tema principale del format di oggi arrivi come esorcismo a tutto ciò. Allora, esatto. Moses Gambini, certamente un protagonista in senso assoluto, ma stiamo parlando di lato B e con movimenti spalle a canestro e una presa di posizione e un carisma importante, direi che possiamo tranquillamente eleggerlo nel nostro All-Star Game. Ci può dire qualcosa di più, Chiodo? Beh, guarda, ma il Gambo, io credo che... come giocatore, diciamo, quelli di una certa età e anche più giovani, cioè, sanno tutto perfettamente di tutti i suoi movimenti. Sì. Il giocatore carismatico, è stato praticamente un giocatore fondamentale in tutte le squadre dove ha giocato e soprattutto ad Anzola, ecco. Poi dopo, fuori dal campo, ancora di più, cioè, è stato un top, un giocatore veramente top. Altre cose sono superflue. Lui è stato un numero uno, per me lo è tuttora. E certo. È chiaro che la sua scomparsa ad Anzola e per me in particolare è stato qualcosa che ha lasciato un segno, anche perché io ero presente, quindi ho visto tutto quello che è successo, purtroppo, insomma. Senti Stefano, io me lo, siccome la parola culo si può dire oggi, sì, ricordo che lui faceva anche dei discreti culi a quelli molto più alti di lui che giocavano in categorie superiori, cioè proprio li perculava, si diceva una volta. Ecco, ci voleva anche l'attacco. Sì, sì, sì, sì, sì. Uno ce l'hai di fianco, chiaramente. Bene, ecco, sì. Grazie. Uno ce l'hai di fianco, però sì. Però è vero, insomma. Beh, ogni tanto lui, ogni tanto io, non è che ha sempre vinto Gambo. Quindi anche tu hai dato del filo da torcere a tutti col tuo tiro. Tu diciamo che sei stato un giocatore che eri già moderno tanti anni fa, perché te tiravi da tre, quindi... Beh, ad Anzola ho anche rotto un tabellone. Ma perché era un tiro troppo duro o perché è schiacciato? Ho tirato una pietra. Senti Stefano, invece volevo dirti, io mi ricordo anche che Gambo verso fine carriera aveva messo su anche un tiretto, può essere? Da tre? Sì, assolutamente, sì, da tre ogni tanto tirava, ma lui diciamo che il tiro intorno all'area l'ha sempre avuto. E poi dopo chiaramente si è, col passare degli anni, come fanno tutti, si è allontanato un po' e poi chiaramente cominciavano ormai a tirare tutti da tre punti, anche lui si è adeguato. No, lui ha sempre fatto canestro, una buonissima mano, dolce, dei movimenti spalle canestro, avete già detto voi. Capacità di stato alto 5-6 centimetri di più, avrebbe giocato sicuramente in categorie superiori. È vero, condivido. È vero. Io di Moses Gambini ho sempre comunque questo ricordo, che lui da giocatore di contatto, indubbiamente, anch'io giocavo vicino, anche se tendevo a spostarmi. Io di Gambo, nonostante una grinta e un'intensità, comunque io ricordo una correttezza, almeno con me, non lo so. Sì, poi, giocatore duro, ma giocatore, che comunque che aveva sempre il rispetto dell'avversario. Una correttezza esemplare, per cui... Sì, assolutamente, raramente l'ho visto arrabbiato. Sì, capito? Quindi... focoso, quindi, ovviamente, duro, sì, focoso, sì. Ma sempre di una correttezza specchiata. È bello concludere con questa conversazione e questo saluto, il nostro Dream Team dedicato al lato B. Ma ti hanno chiuso dentro o puoi uscire? Puoi uscire adesso. No, sono in un... sono per rinchiuso dentro. Okay. Per me sono passati, è andato un giro di chiave, teniamolo lì. Sì, sì, come nel film di Fantozzi, hanno murato la zona senza dirglielo. Sì, esattamente così. Infatti adesso mi calerò con una fune da una finestra. Sì, certo, prova a devadere. Prova a devadere. Comunque, ragazzi, vi saluta la Liviana, perché adesso. Certo, grazie, Non so se la vostra, dopo questo augurio, non so se la vostra trasmissione finirà. È già partita con i collegamenti telefonici un po' così, per cui diciamo che ti abbiamo anticipato, se proprio vuoi. Oddio, Dio, il chiodo. Ciao, chiodo. Ciao, grande. Ciao, ragazzi. Ciao. Perché ha tirato sta gufata? Ma beh, c'è tutta una storia dietro che ti devo raccontare, non posso annoiare i radioascoltatori. Lo facciamo sulle superstizioni una volta. Sì, devo dirti che nel frattempo mi è venuto in mente anche una prossima puntata, se vuoi. Anche a me. I superdotati del basket. No! No, questa... Non si può fare questo. No, mi rifiuto. Guarda che avremo tantissime radioascoltatori, secondo me. Su questo... E forse radioascoltatrici. Abbiamo chiuso in bellezza, vorrei dire, insomma. Comunque sì, beh, lì avremo tematiche e anche infer. Esatto. Ma lì rischiamo la denuncia. L'unica cosa è questa, se vogliamo, però... di queste possibilità e oltre, beh, facciamo la superstizione, va. Dai, che è meglio, rimaniamo con quello. Io vi ringrazio tantissimo, ringrazio Paolo Onofri da remoto, tutti i nostri ospiti, Emiliano Neri, Stefano Pillastrini, Stefano Chiodo Gherardi, e soprattutto ringrazio Paolo Zanardi per aver l'idea di questo lato B sulla quale ha lavorato in maniera importante, il nostro rookie of the year Pietro Rossi, al quale faremo la matricola come minimo. Io ho già la macchinetta qua, non lo so. La matricola. Solo che siccome si è fatto crescere più la barba e i capelli, dobbiamo partire dalla barba. È una matricola atipica. Esatto. Domani voltiamo pagina, la colazione alle ore 7. Grazie per l'attenzione e restate in ascolto dei 103.1 di Radio Città Pulico. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Poultry, and Mona Lisa was a man. Oh, baby. Listen. All around the world, I've got blisters on my feet. I'm trying to find my baby and bring her home with me. You better run into me, baby, and be convinced. If you're running into me right now, woman, you ain't got no sense.